Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente la Libia su tutto, ma l'Italia ci mette anche del suo, e non mi riferisco al blocco parziale delle forniture di gas, alla chiusura di alcuni impianti. Adesso vi leggeremo a brevissimo anche l'ultima nota che è arrivata dal gruppo Eni proprio in merito alla Libia, ma mi riferisco alla chiusura parziale della Borsa di Milano questa mattina. Chiaramente è successo di tutto, perché si è arrivati a ipotizzare che mancasse liquidità. Adesso andiamo e stiamo seri, però obiettivamente il caso è stato molto molto sgradevole, con critiche molto forti degli operatori, anche perché non è la prima volta che succede. Già ricorderete nel caso di Fiat, quando vennero collocate le due Fiat S.P.A. e Fiat Industrial, ci fu un problema ad avere il prezzo di Fiat, molta confusione sul mercato. Oggi addirittura la borsa bloccata fino alle 3:30, praticamente una seduta quasi festiva, 2 ore scarse di contrattazione. Andiamo subito sugli aggiornamenti, però per quello che riguarda l'Eni, il comunicato appena uscito riguarda lo stop temporaneo di alcune attività del gas. Leggo assieme a voi, perché l'agenzia di qualche minuto fa: in relazione all'attuale situazione in Libia, alcune attività di produzione petrolifera e di gas naturale sono state temporaneamente sospese in via precauzionale e i relativi impianti sono già stati messi in sicurezza. Io ricordo che la Libia è il nostro primo fornitore di petrolio, mentre è il quarto fornitore di gas, e qui si parla di produzione sia di petrolio che di gas. Ancora 34 dipendenti dell'Eni si trovano ancora a Tripoli. Lo si legge sempre nella nota dell'Eni, mentre qualche istante fa il ministro Romani, che poi avrà un incontro questa sera con il Presidente del Consiglio, c'è un incontro straordinario, ha detto che il sistema paese non è a rischio, non c'è alcun problema per l'approvvigionamento energetico, l'apporto del gas libico equivale al 12% e abbiamo riserve che ci permettono di affrontare con tranquillità la situazione. E poi gli altri gasdotti stanno funzionando all'80%. Il gas dall'Algeria non è un problema. Devo dire che anche la stagione aiuta, nel senso che se la stessa vicenda fosse accaduta a novembre avremmo avuto altro genere di problemi. Invece in questo caso siamo già in inverno inoltrato e avanzato, per cui obiettivamente da quello che anche noi risulta non ci dovrebbero essere grossi problemi sull'approvvigionamento, sugli stoccaggi di gas e di petrolio. Altra cosa invece è il prezzo del petrolio, e non avevamo dubbi che i mercati ci avrebbero scommesso. Pensate che poco fa, 2 ore fa, a New York il petrolio ha aperto in rialzo dell'8,5% in una botta sola, $93.50. Ancora il Brent, il petrolio quello inglese, quello che viene trattato a Londra, petrolio del Mar del Nord, è oltre $108, quindi siamo sempre sopra i livelli che non si vedevano dal settembre del 2008, prima del scoppio della crisi economico-finanziaria. Ancora vedo molte domande già sul petrolio, sulla borsa. Abbiate pazienza, insomma, adesso ne parleremo, se tutto verrà confermato, anche con il numero uno della borsa italiana. Le Amazzoni, vabbè, leggo i messaggi anche ogni tanto ironici. Per quello che riguarda il prezzo del petrolio, in questo momento siamo appunto a $93.50 a New York. Il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Nobuo Tanaka, ha detto: attenzione, è l'AIE che parla, quindi se il prezzo del petrolio si mantenesse per tutto il 2011 agli attuali livelli, cioè sopra i $100 al barile, si creerebbe lo stesso tipo di crisi del 2008, quando il petrolio sfiorò i $150 al barile. Ma il ministro saudita del petrolio ha chiarito che l'OPEC, che rappresenta da sola il 60% della produzione mondiale di petrolio, l'OPEC, dicevo, aumenterà la produzione se necessario. In realtà poi tutti i terminali petroliferi libici sul Mediterraneo sono stati bloccati, questo lo si sa già dall'una. Sulla borsa vedo numerosi messaggi, un po' di pazienza, adesso ne parleremo perché obiettivamente sono furibondi anche gli operatori, la Consob ha chiesto chiarimenti, alcuni di voi ci chiedono se oggi a questo punto la borsa chiuderà alle 10 di sera come Wall Street, che poi sono le 9:30 per recuperare il tempo perduto. Vediamo cosa fa la borsa però, lo vediamo con le notizie in breve, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, vediamo cosa fa sta borsa che ha aperto alle 3:30. Meno 1% Milano, invariata Francoforte, invariata Londra, l'America che oggi è aperta perde lo 0,60, Parigi lo 0,90. Insomma, Milano si conferma la borsa che più sta soffrendo per la Libia e devo dire, anche perché noi siamo il primo partner quanto a esportazioni in Libia, e chiaramente le vicende pesano su alcuni titoli. Impregilo è ancora la peggiore, meno 2,5, Ansaldo CTS meno 2,5. Poi c'è la pattuglia dei titoli legati alle assicurazioni, Generali meno 2%, Saipem meno 1,90, Fondiaria meno 1,90, Unicredito meno 1,70, invece qui c'è la partecipazione libica del 7,5%, però ripeto, insomma, qualcuno se la comprerà questa quota, dovessero uscire i libici, Azimut meno 1,60, Eni non perde così tanto, meno 0,80, per dire perde Eni meno di Enel che perde l'1%. Diasorin più 1,90, Tenaris più 0,90, Atlantia mezzo punto percentuale come Campari, Snam più 0,40. Euro su dollaro a quota 1,3677, questo è il valore attuale. Sì, volete sapere di cosa sta dicendo Gheddafi? Vi aggiorneremo, vi stiamo aggiornando anche con il GR. Comunque. Vediamo che cosa ha dichiarato poco fa in un'immagine che chiaramente è difficile raccontare, sta ancora parlando Gheddafi, ma è un'immagine stranissima quella del leader libico, perché è sotto una specie di garage bombardato, distrutto, non si capisce bene, ma sembra un edificio post bombardamento, una via di mezzo tra un garage e uno scantinato con le pareti scrostate. Non dipinto, insomma, un'immagine molto strana quella che ha alle sue spalle. Con due microfoni non appare nessuno, ripeto, sembra un bunker più che ma un bunker anche messo male. Quello di cui parla. Detto ciò, le superpotenze, ha detto Gheddafi, considerano bene il nostro paese. Tutte le nazioni africane ci considerano l'America, coloro che guidano il mondo, e anche le superpotenze hanno una buona considerazione della Libia. Resterò capo della rivoluzione fino alla morte. Ecco la frase, diciamo, un po' più preoccupante. Sono un rivoluzionario e poi morirò come un martire, morirò come mio nonno, ha detto Gheddafi pochi minuti fa. Sono un beduino rivoluzionario, la Libia guiderà l'Africa e l'America del Sud. E ancora resisterò, libertà e vittoria e rivoluzione, ha gridato il leader libico Gheddafi. I manifestanti sono ratti pagati dai servizi segreti stranieri e gli insorti sono una vergogna per le loro famiglie e le loro tribù. C'è calma e sicurezza nel paese e riporteremo l'ordine. Sì, insomma, la cosa più forte mi sembra a questo punto, visto che le sto leggendo con voi, il fatto che morirò come un martire, resisterò, insomma, un Gheddafi che non ha nessuna intenzione di fare quello che ha fatto Mubarak o Ben Ali prima di lui, questo complica anche molto le cose in Libia. Ancora, ripeto, questa sera c'è un vertice Consiglio dei Ministri, parlerà il Ministro dell'Attività Produttiva Romani sulle forniture. Berlusconi e Letta sono saliti al Quirinale alle 4:30, ve la racconto il nostro GR. Ancora, questa mattina il sottosegretario con delega all'energia Stefano Saglia aveva detto che le forniture di gas sono ok, ma l'attenzione resta alta. Sempre per quello che riguarda la Libia, oggi ne ha parlato anche il vicepresidente di Federmeccanica. Federmeccanica presentava i dati sul 2010 che sono dati buoni, devo dire, però siccome il Nord Africa ha un peso importante per il mondo della meccanica industriale, della meccanica di precisione italiana, sentiamo questo commento di Luciano Miotto al microfono della collega dell'agenzia di stampa Radio Colle Sole 24 Ore, Teresa Trillo. Teniamo conto che il Nord Africa rappresenta per noi grosso modo 5 miliardi di euro di fatturato, in particolare la Libia rappresenta 1 miliardo di euro, l'Egitto 1 miliardo e 700 milioni di euro all'anno di esportazione metalmeccanica. Quindi è chiaro che sono tra i nostri principali partner, sono tra i paesi che consumano molto della nostra produzione metalmeccanica. Diciamo che i paesi nel Nord Africa rappresentano tra un 3 e un 5% delle nostre esportazioni metalmeccaniche. Lei ha detto che c'è il 3% dell'export è a rischio? Sì, il 3% dell'export è a rischio perché, ripeto, questi paesi rappresentano per noi grosso modo 5 miliardi di euro di fatturato che le aziende italiane mandano ogni anno in quei paesi. Volete sapere dell'oro? Avete ragione, dopo il botto di ieri sera, adesso è stabilmente sopra i 1.400 dollari, quindi vicinissimo al record. Anche l'argento, che aveva fatto il prezzo più alto da 30 anni, è leggermente in calo a 33,29 dollari. Dicevamo però dei dati di Federmeccanica, insomma, per la produzione è più 9% nel 2010 su base annua, che è un recupero. Insomma, ricordate che il mondo metalmeccanico ha avuto cali del tra 30 e 40% nel 2009. Allora, un commento a questi dati da sempre della collega Teresa Trillò al vicepresidente di Federmeccanica Luciano Miotto. Il settore metalmeccanico chiude il 2010 con un miglioramento sostanziale rispetto al 2009. Diciamo che è proseguito in tutto l'anno il miglioramento di tutti i parametri che sappiamo erano gravemente peggiorati per effetto della crisi del 2008. Dobbiamo però segnalare un certo rallentamento del miglioramento nell'ultimo trimestre. I fattori di questo miglioramento, peggioramento della ripresa, noi li notiamo sostanzialmente nel fatto che è venuto meno l'effetto della Tremonti Ter e quindi è venuto meno l'investimento interno, ed in generale noi riteniamo che a differenza degli effetti che noi vediamo sulle esportazioni che si stanno sviluppando e stanno crescendo, notiamo che mancano i consumi interni, ovvero i consumi interni non riescono a ripartire, e questo ovviamente va ad inficiare l'opportunità di sviluppo che viceversa noi vediamo in altri paesi. Lei prevede un ritorno alla produzione pre-crisi per quando? Ma i dati purtroppo ci dicono che con questo andamento di crescita noi impiegheremo ancora un paio d'anni almeno per poter arrivare ai risultati del 2008. Ovviamente se cambieranno alcuni fattori, e in particolare se avremo delle politiche effettivamente finalizzate allo sviluppo dell'industria, in particolare dell'industria metalmeccanica e manifatturiera, noi potremo sperare di ritornare ai valori del 2008 in tempi minori. Ma questo non è sostanzialmente legato alle politiche fatte all'interno delle aziende quanto alla politica con la P maiuscola, cioè alle decisioni che prenderanno il nostro governo e la nostra politica a favore di un'effettiva crescita, di un fattore, un effettivo investimento nel nostro settore. E cosa vi aspettate dal governo? Cosa dovrebbe fare effettivamente per stimolare la domanda interna? Ma per stimolare la domanda interna innanzitutto dovrebbero partire delle vere infrastrutture che diano opportunità da un lato di offrire lavoro e dall'altra poi di avere diminuzioni di costi. Noi oggi ripetiamo le solite cose, sono sostanzialmente TAV, sono sostanzialmente infrastrutture, cioè tutte quelle iniziative che innanzitutto sono fonte di sviluppo immediato e di creazione di posti di lavoro, perché effettivamente vanno a creare lavoro, e poi sono vantaggio per i cittadini e riduzione dei costi per noi aziende nel momento in cui effettivamente riusciamo a viaggiare con costi minori, a trasportare le nostre merci con costi minori o anche a produrre con costi minori. Allora, intanto, anzi allora, così faccio contenti alcuni ascoltatori, Intanto si è capito da dove sta parlando Gheddafi, ecco perché era una casa bombardata. Sta parlando in questi istanti dalla propria abitazione nel centro di Tripoli, quella che fu bombardata dagli aerei americani nel 1986 e poi, chiedo venia per l'ignoranza, trasformata in una sorta di monumento nazionale. Quindi parla da un monumento nazionale, la casa bombardata dagli americani nel 1986, quando cercano di uccidere Gheddafi. È chiaro, quindi, il riferimento simbolico e storico: una sua figlia adottiva morì nel bombardamento. E poi i soldi che provenivano dal petrolio sono rimasti nelle nostre mani, ha continuato Gheddafi, che continua a parlare. L'ENI ha confermato invece di avere sospeso la fornitura di gas attraverso il gasdotto Green Stream. Dice l'ENI di essere comunque in grado di far fronte alla domanda di gas dei propri clienti, però il gasdotto Green Stream è chiuso. Green Stream è il quarto gasdotto in termini di importanza per l'Italia, perché il primo fornitore è appunto l'Algeria, con il Transmed, il 33%, e poi c'è la Russia, che al 30% del gas che ci arriva è russo, attraverso il gasdotto TAG. Poi c'è l'Olanda, che ha anche una quota importante di quasi il 20%, con i gasdotti Transit Gas e TEMP. Per cui dopo Russia, Algeria e Olanda arriva la Libia quanto a gas. 12% dei nostri consumi. Dunque, c'è chi dice, insomma, la sento non brillante ultimamente, non so, mi dica perché. Certo che è difficile poi parlare e fare ragionamenti quando le notizie di cronaca ti travolgono come adesso. Il commento su Gheddafi, beh, non penso che sia interessante il mio commento su Gheddafi, insomma, parliamoci chiaro. È dal 69 che lì noi siamo per la democrazia, sempre per l'alternanza, per le elezioni. Allora, che dobbiamo dire di Gheddafi ancora, al di là dello spettacolo da più di un osservatore definito quasi indegno di quando venne in Italia con la tenda, tutti a ossequiarlo perché c'ha il petrolio, il gas. Andiamo avanti, che meglio. Vola l'export delle calzature italiane e invece cala la cassa integrazione. Le imprese del calzaturiero sono più ottimiste. Imprese colpite prima dalla concorrenza cinese nel 2005-2006, poi anche dalla crisi del 2009. Più 14% nei primi 9 mesi del 2010 l'export di calzature italiane, e per il 12% delle imprese il peggio è alle spalle. Anche il mondo dell'editoria dà segnali di ripresa nel 2010, lo ha detto il presidente della FIEG Carlo Malinconico nel corso di un convegno sull'andamento della filiera della carta. Ultima notizia prima di passare a una cosa che vi farà arrabbiare: i pedaggi, il TAR del Lazio ha annullato gli aumenti sulle autostrade e in concessione diretta sui raccordi autostradali in gestione diretta dell'ANAS, compreso il grande raccordo anulare di Roma. E il governo però, ha detto il vice ministro delle infrastrutture Roberto Castelli, va avanti. E il pronunciamento del TAR è semplicemente l'accordo di una vicenda già conclusa. È inconcepibile che gli amministratori assumano, il riferimento era anche al sindaco di Roma Gianni Alemanno, assumano posizioni così demagogiche. Allora, adesso cerchiamo di tenere, visto che non c'è solo la Libia oggi, di tenere assieme da un lato alcuni tagli alla spesa sociale di cui ci continua a giungere notizia, poi la vicenda del Pio Albergo Trivulzio e poi la lotta alla corruzione, visto che oggi la Corte dei Conti ha fatto i conti su quanto ci costa questa lotta alla corruzione. 349 quanto ci costa avere la corruzione senza lotta. 349-238-6666 per i vostri SMS. Partiamo dalla corruzione, partiamo dal Pio Albergo Trivulzio. Si sono infatti dimessi il presidente Trabucchi e i 5 consiglieri dei 7 consiglieri del Pio Albergo Trivulzio. 4 sono nominati dal comune e 3 dalla regione. E da ieri è nota anche la lista degli appartamenti venduti, l'avete trovata su molti giornali, su tutti direi. E anche in questo caso, non solo negli affitti, ma anche negli appartamenti venduti, fiocco nei trattamenti di favore. Se voi intervistate, interpellate qualunque agente immobiliare, non bisogna andare tanto in alto, il calcolo ve lo fa subito. In media i ribassi arrivano, vanno tra il 30 e il 50% rispetto ai prezzi di mercato. E poi devo dire che la cosa più fastidiosa è che questi appartamenti vengono offerti a gente che già ha i soldi, per essere ancora più populisti, così mi becco anche oggi un po' di insulti via SMS. Allora, il Pio Albergo Trivulzio, che se continua così lo ribattezziamo il ricco Albergo Trivulzio, perché è più una cosa per ricchi che per persone non bisognose, dispone di 1.400 immobili, da cui ricava 7 milioni di euro l'anno. È pochino, perché, ripeto, qualunque operatore del mondo del real estate, ossia del mondo immobiliare, spiega tranquillamente che con 1.400 immobili almeno sarebbero da ricavarsi il doppio, cioè 14 milioni di euro l'anno come affitto e non 7 milioni. E uno dice: vabbè, ma stai a ragionare sui 7 milioni di differenza. Beh, con i tagli che arrivano alla spesa sociale nel 2011, ossia azzerato il fondo per la non autosufficienza, ossia l'assistenza, gli insegnanti di sostegno per i portatori di handicap, il fondo servizi per l'infanzia e asili nido, il fondo nazionale per le politiche sociali, che quest'anno si ferma a 275 milioni contro i 450 del 2010 e i 580 del 2009, quindi è meno della metà. Le politiche per la famiglia passano da 185 a 52 milioni, le politiche per i giovani da 94 a 33 milioni, il fondo sociale per l'affitto passa da 140 a 33 milioni, insomma, dai 2 miliardi destinati ai più bisognosi e meno abbienti nel 2008 siamo adesso a scarsi 500 milioni. Ecco, con questo scenario nazionale 7 milioni in più all'anno per il Comune di Milano sarebbero importanti. Per esempio, per le scuole, per gli asili, che lamentano appunto l'assenza di fondi, sono 7 milioni, sono tanta roba in una città come Milano. E poi c'è un altro caso a Milano, perché ci sono 2.000 immobili di proprietà del Policlinico di Milano. Ma pensate, c'è un patrimonio da 1,5 miliardi di euro, si ricavano appena 11 milioni di euro l'anno. Neanche l'1%. E stranamente arrivano i primi casi di favori a politici e personaggi noti, però anche casi di immobili abbandonati all'incuria, addirittura finiti in mano all'andrangheta. Chi c'è dentro? Per ora si è scoperto che tra gli affittuari del Policlinico c'è l'ex assessore regionale Prosperini, cascina in provincia di Milano per complessivi 800 metri quadri a meno di 1000 euro al mese. Il consigliere comunale Enrico Fedrighini, due immobili per 120 metri quadri a circa 1000 euro al mese in tutto. Il consulente del comune, 83 metri quadri a 600 euro al mese. E infatti Formigoni questa mattina aveva detto: presto avvieremo l'iter di commissariamento. E così è stato sul Pio Albergo Trivulzio. Questi però ultimi riguardano gli immobili del Policlinico di Milano. Poi abbiamo una lettera che riguarda anche un caso analogo a quello che abbiamo raccontato a Roma, e cioè a Torino, di un centro di riabilitazione per bambini con difficoltà neuropsichiatriche che non ha i soldi, però poi i soldi ci sono per altri. C'è l'intervento del Presidente della Corte dei Conti, siccome è molto delicato, ascoltiamo meteo, pubblicità, poi Corte dei Conti, la borsa, intesa come la borsa che non riesce ad aprire oggi, e la borsa intesa come la chiusura di borsa, meno 1% in questo momento. 349-238-6666 per i vostri sms. 17:36 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Fra poco commentiamo anche la borsa, che oggi è rimasta chiusa fino alle 3:30 a Milano per un errore, problemi, adesso cerchiamo di capire perché, meno 1%, peggio di tutte le altre, o meglio Parigi fa meno 1,1%. Pesa ancora la Libia, Ansaldo meno 2,44, però meno di ieri, nel senso che il Banco Popolare perde il 2,60, perde più di Unicredito meno 1,80 e Eni perde lo 0,80%. Vorrei però continuare, visto che mentre si parla di più albergo Trivulzio e anche spuntano gli scandali per gli affitti del Policlinico, oggi la Corte dei Conti ha fatto il calcolo su quanto ci costi la corruzione in questo paese. Dunque, perché qui ce n'è delle belle. Allora, leggo un sms, perché tra molti d'accordo, che scrive: non riesco a capire come i dipendenti del Sole 24 Ore possono essere così tanto faziosamente di sinistra. Guardi che anche la compagna di Pisapia, nonché giornalista del grande giornale di De Benedetti, ha preso la casa a prezzi stracciati. E infatti l'abbiamo raccontato, cioè, su tutti i giornali. Le dirò di più: nello scandalo che sta uscendo oggi sul il Policlinico di Milano, oltre all'ex assessore regionale Prosperini, c'è il consigliere comunale Enrico Fedreghini, che abbiamo citato, che è un consigliere comunale dei Verdi. Allora, il consulente del comune invece, Aldo Gazzetti, una volta che lei si è sfogato così, cosa ha ottenuto? Beh, sta meglio? Noi no, e le spiego anche perché mentre appunto le 2000 case del Policlinico rendono al Policlinico una cifra risibile, cioè 2000 immobili, 1 miliardo e 500 milioni di patrimonio rendono 11 milioni all'anno, meno dell'1%, e così come il Pio Bergo Trivulzio rendeva 7 milioni di euro e qualunque calcolo ti dice che almeno dovevi guadagnare il doppio, 14 milioni. E dopo il caso dell'ospedale di riabilitazione di neuropsichiatria a Roma, ci ha scritto una mamma lamentando, per modo di dire, il fatto che il centro di riabilitazione neuropsichiatrica a Torino, in via Sparato 14, neuropsichiatria infantile chiaramente, diretto dalla dottoressa Basso, praticamente ha, con un sms, eliminato tutti i logopedisti, anzi gli aveva chiesto di presentarsi a titolo volontario se volevano assistere questi 300 bambini con grossi problemi di riabilitazione fisica, logopedica e psicologica. E, tra l'altro, voglio dire, le mamme hanno fatto il costo di quanto ci vorrebbe. Allora, sono 300 bambini, 5 euro a seduta o a settimana vorrebbero dire 1500 euro a settimana, 9000 euro al mese, 100.000 8 euro l'anno, 100.000, 108.000 euro l'anno, questo per 300 bambini, per pagare i logopedisti. E allora poi mi dite cosa c'entrano i 7 milioni che non guadagnano il più albergo Trivulzio, il ricco albergo Trivulzio o il Policlinico? O i 5 milioni di quote di euro che pagheremo per gli splafonatori delle quote latte, per i banditi? E poco fa il Presidente della Repubblica ha rinviato il decreto mille proroghe, quello dove c'è anche questa misura per alcuni rilievi, cerchiamo di capire perché. Fra poco sentiamo quanto costa la lotta alla corruzione: dai 50 ai 60 miliardi di euro. L'Italia è al 67esimo posto tra i paesi quanto a corruzione su 180 paesi, siamo scesi di altre 4 posizioni rispetto al 2009, eravamo al 63esimo posto, immagino che anche questo verrà preso politicamente. E allora il procuratore generale della Corte dei Conti, Mario Ristuccia. Un primo profilo è il progressivo mutamento delle regole dell'azione pubblica, da quello dell'ordinamento contabile a quello di diritto comune, sia per previsione legislativa di carattere generale, sia quale effetto dell'adozione di modelli privatistici per la struttura organizzativa dei soggetti pubblici, sia per la risposta non applicabilità delle regole di diritto pubblico in ragione di situazioni di urgenza ed emergenza. Tale mutamento, in linea di principio fisiologico, in quanto da ascriversi all'obiettivo del conseguimento di migliori livelli di economicità, efficienza e tempestività dell'attività amministrativa, non ha peraltro evitato il prodursi di anomalie e distorsioni, quali i casi di trasformazione delle privatizzazioni da efficace strumento per lo svolgimento di servizi, addirittura funzioni pubbliche, a mezzo di mera elusione delle regole della contabilità pubblica o di gestione clientelare del potere politico-amministrativo, ovvero di trasformazione del regime di emergenza in sistema ordinario, con conseguente sostanziale riduzione delle garanzie di impiego delle pubbliche risorse. A questo tipo di devianza dalle finalità assegnate e dai molti altri casi in osservanza di legge e dei criteri di buona amministrazione per difetto dei livelli minimi di dirigenza che devono governare l'impiego delle pubbliche risorse, Si aggiungono poi le patologie costituite da fenomeni delittuosi che continuano ad affliggere la pubblica amministrazione, quale la corruzione e la frode, soprattutto in materia di aiuti e contributi nazionali e dell'Unione Europea. Noi abbiamo fatto dei processi che si sono basati anche davanti a noi su questi risultati dell'istruttoria penale che erano intercettazioni. Ecco, questo tipo di processi non avremmo neppure potuto farli noi se non ci fossero state le intercettazioni. Questo era il senso di quell'osservazione che è stata messa dentro. Il federalismo è un problema molto serio, ma ecco, proprio perché il federalismo può avere degli effetti, insomma, potrebbe non funzionare. Se si rispettano, il federalismo può funzionare. Se non si rispettano, allora può saltare tutto. Ecco, in questo, sul principio dell'osservanza di queste regole che saranno la base del federalismo fiscale, il ruolo della Corte dei Conti è importante. Così appunto il procuratore generale della Corte dei Conti Mario Ristuccia, che ha anche aggiunto, è lui che lo dice, che le intercettazioni sono essenziali alla lotta alla corruzione, non noi, ha aggiunto però che calano le denunce mentre crescono i casi, più 30%, 237 casi di corruzione nel 2010, 137 di concussione, 1090 di abuso d'ufficio. In calo però anche le persone denunciate nel 2010, 709 per corruzione. Allora, abbiamo ottenuto assieme tutto, più albergo Trivulzio, soldi che mancano anche per i bambini portatori di handicap, problemi concreti di istituti sanitari, e invece istituti come più albergo Trivulzio e Policlinico che si permettono di dare le case a poco prezzo ai ricchi, almeno gli avessero a tanto prezzo ai ricchi. E c'è chi dice, ma quanto populismo, qualunquismo nazionale popolare, a quando un programma di finanza con taglio professionale? E lo faccia lei, io non ce la faccio, io non sono capace, posso al massimo commentare la borsa, almeno 1% adesso, e chiedere al numero uno, e cercare tra un minuto il numero uno della borsa italiana per capire che cosa è successo oggi. Perché? Perché tra l'altro il giorno in cui aumentavano i problemi con la Libia, tutti hanno iniziato a vedere complotti e in qualche modo anche macchinazioni, perché la borsa italiana si è bloccata, questa mattina non è riuscita a aprire, è rimasta chiusa fino alle 15.30, addirittura il Wall Street Journal nella sua edizione online ha detto la borsa italiana è ferma per problemi tecnici, nel giorno in cui erano attesi molti movimenti sul listino legati alle news sulla Libia, di cui l'Italia è il primo partner commerciale. Sconcerto tra gli operatori, protestano gli operatori inglesi perché la borsa italiana è fusa con quella di Londra. Allora, dopo il traffico racconteremo questa giornata di cui non c'era bisogno, comunque al Cardiopa, ma anche per quello che riguarda la borsa italiana. 349-238-6666 per gli sms. Di nuovo in diretta, allora vediamo di raccontare questa giornata stranissima, e non è la prima volta, alla borsa italiana, con il numero uno della borsa italiana, Raffaele Irusami, che è amministratore delegato. Buonasera, dottor Irusami. Buonasera. Grazie anche per averci raggiunto. Allora, lei ha ricevuto oggi, mi rendo conto insomma che non è stata una bella giornata, la lettera della Consob che ha chiesto le spiegazioni di questo blocco alla borsa italiana. E ha mandato una lettera anche al numero uno della London Stock Exchange. La borsa italiana è di fatto opera sulla stessa piattaforma della borsa britannica, a Xavier Rolet. Ha chiesto chiarimenti sul blocco di questa mattina, che è durato fino alle 3:30. Poi le faccio ascoltare due, diciamo, dei suoi clienti, chiamiamoli così. La nostra Deborah Rosciani ha raggiunto il presidente di Assosim, che è l'Associazione Italiana degli Intermediari Immobiliari, e quindi delle SIM italiane, Michele Calzolari. Diciamo che noi abbiamo cercato come associazione di raccogliere un po' di informazioni, non è facilissimo, però nella sostanza, senza entrare troppo negli aspetti tecnici, diciamo la piattaforma di negoziazione è fatta da due componenti, un flusso informativo e diciamo un motore che gestisce gli ordini. Questo, allora, il motore che gestisce gli ordini è una piattaforma inglese che è stata, diciamo così, avviata un paio d'anni fa. Per quanto riguarda invece il flusso informativo, gli italiani usano ancora un flusso informativo che si chiama DDM Plus, che era della borsa italiana precedente, ed è questo che si è fermato. Allora, senza poter disporre del flusso informativo, la borsa italiana ha ritenuto che fosse opportuno bloccare anche la parte, diciamo così, operativa. Quindi diciamo che la crisi, parliamola così, di natura tecnica di Borsa Italiana di questa mattina non ha nulla a che fare con, come dire, la crisi libica e i massicci ordini di vendita che da ieri stanno arrivando su tutti i mercati internazionali, che ieri hanno particolarmente penalizzato Piazza Affari? Sicuramente no, non ha niente a che fare in modo diretto. Certo è che se gli investitori questa mattina volevano comprare o vendere, approfittando della situazione di particolare turbolenza, non hanno potuto farlo e non possono farlo. Tra l'altro la cosa più interessante è che i più arrabbiati sono proprio invece gli inglesi, cioè gli intermediari inglesi, perché loro, avendo il flusso informativo, diciamo così, nativo, come si dice in termini tecnici, non capiscono perché non si debba e non si possa operare. Presidente, quanto vi danneggia questa situazione come SIM, come sistema? Beh, allora, diciamo che innanzitutto danneggia dal punto di vista prettamente economico, nel senso che per gli investitori poter operare oggi sarebbe stata un'opportunità, ma chiaramente anche per gli intermediari, nel senso che avrebbero lavorato e quindi guadagnato. E così non è, per cui c'è sicuramente un danno economico immediato, ma c'è soprattutto un danno d'immagine importante, perché insomma, in situazioni di questo genere, e non è la prima volta, la borsa, come dire, non risponde in maniera adeguata. Allora, così chi rappresenta le SIM, gli intermediari immobiliari di questo paese? Dottor Ierusalmi, ancora 30 secondi di pazienza, perché nel frattempo abbiamo raggiunto anche Marco Caprotti, che è Senior Editor Analyst di Morningstar Italia. Morningstar è la più grande società indipendente al mondo di attribuzione di voti ai fondi di investimento. Arrabbiato anche lui. I trader odiano l'incertezza e la situazione libica ne sta gettando molta sui titoli pesanti di borsa italiana. Il provvidenziale guasto tecnico che ha colpito oggi la piazza di Milano, da una parte ha permesso agli investitori di ragionare più lucidamente su quanto sta succedendo in Nord Africa e sugli effetti che si potranno avere su titoli come Unicredit, Impregilo e Eni. Dall'altra parte però ha impedito, ed è forse che è la cosa più grave, di muoversi dopo la pessima seduta di lunedì. Sulle altre europee gli operatori hanno potuto lavorare su titoli meno rischiosi, mentre in Italia sono rimaste congelati sulle posizioni del giorno prima. Qualcuno dice che è inaccettabile, di certo è sospetto che spesso di fronte a una situazione difficile, ed era già successo inizio maggio dopo un forte scivolone di Wall Street, la borsa si blocchi per misteriosi motivi tecnici. Allora, la borsa si blocchi per misteriosi motivi tecnici, addirittura gli investitori inglesi, Ierusalmi, volevano oggi approfittare della borsa italiana, perché siccome noi siamo quelli più esposti alla Libia, volevano speculare, niente di male, no? Essere ribassisti su molti titoli, e invece è tutto bloccato, e lì è nato l'ipotesi, ecco l'Italia che per non essere travolta dall'evento sulla Libia blocca la borsa. Ci dica che non è così, perché chiaramente insomma, non immaginiamo che lei abbia dimenticato di accendere l'interruttore dei terminali questa mattina. Più articolata mi sembrava la critica di Calzolari, che diceva: avete un sistema operativo che male si integra. Adesso cerco di sintetizzare con quello inglese. Prego. Ma allora, fantasie suggestive non le commento neanche, sono sorpreso francamente anche che vengano riportate, perché credo che in questi casi un filtro intelligente anche da parte della stampa in generale sia auspicabile. Per quanto riguarda il commento di Calzolari, lui non ha detto che il sistema non si integra con quello di Londra, ha semplicemente spiegato la causa, che in effetti è la reale causa del disservizio che è stato causato oggi da questa componente che è il DDM Plus, che limitando diciamo la possibilità per quasi tutti i clienti che sono in Italia di poter partecipare al mercato, ci ha costretto a sospendere le negoziazioni, perché noi siamo diciamo garanti del normale svolgimento delle negoziazioni, che non può essere garantito se più di metà del mercato non è collegata. Quindi questo è semplicemente il motivo. Peraltro suggestiva e fantasiosa l'ipotesi tracciata da questa persona di Morningstar, che io neppure conosco, che non so bene neanche a che titolo abbia sia stato intervistato, francamente, però come analista di Morningstar adesso sì, non se la prende con Radio Core, cioè noi abbiamo sentito vari operatori, Hirosami, lei è qui per raccontarci come sono andate le cose veramente. Io ho precisato certo, che no, sa com'è in questi casi, no? Cioè Gheddafi che sta ancora parlando nel bunker da circa tre quarti d'ora, no? Uno, cioè la giornata sono un po' così e vede la borsa bloccata, la borsa più sensibile della Libia, poi noi ci mettiamo del nostro perché siamo cattivi, maliziosi, ci laviamo anche poco, però insomma Hirosami, le coincidenze erano tante, no? Certo. E se mi lascio parlare, peraltro posso spiegare meglio agli prego, prego. Cosa è successo. E dunque, peraltro la borsa ha riaperto alle 3:30, quindi ha consentito in ogni caso a tutti i partecipanti di avere 2 ore di negoziazione e quindi hanno potuto fare e vendere quello che avrebbero voluto vendere. Non mi pare che da stamattina ci siano state notizie particolari che siano arrivate sul mercato e quindi sostanzialmente la giornata di negoziazione si è conclusa normalmente. C'è stata un'asta di apertura, c'è stata un'asta di chiusura e ci sono state comunque circa 2 ore di negoziazione in continua. Il mercato dei derivati peraltro è stato aperto fin dalla mattina normalmente, fin dalle 9, è stato poi sospeso solo perché è stato necessario per ricollegare tutti i clienti per poter partire anche sul mercato cash. Siccome questa componente del DDM Plus è in comune sul mercato dei derivati e sul mercato cash azionario, è stato necessario poi sospendere il mercato dei derivati, che comunque fino alle, mi sembra, 12 ha negoziato normalmente, quindi lasciando a tutti la possibilità di comprare e vendere e quindi assolutamente dissolvendo queste suggestive fantasiose ipotesi che sono prive di senso. No, quello lo credo anch'io, però una cosa, la lettera della Consob invece c'è. La lettera della Consob arriva sempre, perché quando c'è un malfunzionamento di mercato... No, e chiede, Vegas vi ha chiesto, ma perché si blocca ogni tanto? Adesso io traduco, Hirosami, lei ha ragione, ma io devo spiegare a tutti. Certo, assolutamente. Cioè, perché si blocca la borsa ogni tanto? Allora, se lei dovesse spiegare a sua figlia, sua amica... Sua madre, perché si è bloccata la borsa? Che cosa mi direbbe alla fine? Cioè... Ma guardi, la borsa si blocca perché la borsa gira su delle piattaforme tecnologiche. Le piattaforme tecnologiche ogni tanto smettono di funzionare. Questo succede a noi, succede a tutti gli altri mercati del mondo. Non più tardi di un mese fa mi pare che è stata bloccata per tutto il giorno su Euronext. Non più tardi di qualche mese fa è stata bloccata anche sul New York Stock Exchange e succede ricorrentemente su tutti i mercati perché le piattaforme tecnologiche purtroppo non hanno un 100% di... Ma è un problema di integrazione con Londra? Questo invece è una domanda seria. Assolutamente no, perché questa componente non ha nulla a che vedere col sistema che c'è a Londra e quindi sostanzialmente non ha nessuna attinenza con la piattaforma di Londra, che come lo stesso Calzolari riportava funzionava perfettamente. Senta, e l'ipotesi invece che fanno alcuni ascoltatori di tenere la borsa aperta fino alle 10 per recuperare il tempo perduto assolutamente priva di senso, perché la gente ha avuto il tempo comunque di concludere la maggior parte degli ordini che aveva da parte della clientela, e quindi il tempo è stato assolutamente sufficiente, tenendo conto che c'è un'asta di apertura e un'asta di chiusura, si è ridotto il tempo di negoziazione continua, e questo sicuramente in una giornata magari molto più volatile di quella che abbiamo avuto oggi, che è stata tutto sommato tranquilla, tranquilla, probabilmente avrebbe effettivamente ridotto le chance, le possibilità di operare, però in una giornata come quella di oggi sinceramente non ci sono state condizioni particolari. Ok, Hirosami, io ho il GR, però in una battuta riesce a dirmi adesso farete qualcosa però per evitare, oppure può anche dirmi onestamente, guardi, ogni tanto capita, si blocca il computer, si blocca anche la borsa, non lo so. Tutto quello che è possibile, perché il nostro lavoro è quello di gestire i mercati e i mercati per funzionare devono essere aperti, perché se sono chiusi anche noi purtroppo, come diceva il buon Michele Calzolari, anche noi non guadagniamo, quindi come non guadagnano gli intermediari non guadagniamo neppure noi, quindi il nostro compito è quello di tenere i mercati aperti. È chiaro che ci impegneremo affinché che questo non si ripeta, come facciamo sempre, peraltro ripeto, sono episodi che succedono molto molto raramente. E se andiamo a guardare la storia degli ultimi 5 anni è abbastanza evidente che sporadicamente avvengono, ma il livello di servizio rimane ben oltre il 99,5. Noi ce l'auguriamo, grazie per la disponibilità e per aver risposto a tutti i rilievi all'amministratore delegato della Borsa Italiana Raffaele Hirosami. Grazie, buonasera, arrivederci. Il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso soprattutto dell'evoluzione anche dal punto di vista economico della situazione in Libia. da alcuni aggiornamenti dai mercati e poi una breve cosa su Eutelsat. Devo però leggere alcuni sms, oltre che ricordare e dare alcune risposte agli ascoltatori che molto hanno scritto sia sul tema della Libia e della borsa chiusa. Abbiamo appena avuto il ministro legato della borsa italiana Raffaele Gerusalmi a spiegarci il perché, ma anche sul tema della Corte dei Conti e della corruzione. In realtà, diciamo, un ascoltatore scrive, insomma, perché ci vuole sempre far commuovere con i poveri bambini senza ospedali? No, guardi, non è un tentativo di commuovervi, è che veramente mi fa imbestialire quando vediamo che il più albergo tributo dalle case sicuramente a non chi ne aveva più bisogno, le fa pagare il 50% in meno di quello che è dovuto, con un mancato guadagno di almeno, stando bassi, 7 milioni di euro all'anno, che il Policlinico di Milano, poi escono a Milano queste cose forse perché c'è qualche anticorpo in più, non lo so, e il Policlinico di Milano 2000 immobili, guadagna neanche l'1%, cioè 11 milioni all'anno, e li dà a prezzi vantaggiosi anche qui a persone che sono vicine alla politica, ex assessore regionale Prosperini, consigliere comunale Enrico Fedrighini, consulente del comune Aldo Gazzetti. E poi il governo nel milleproroghe mette 5 milioni per gli splafonatori del latte, e poi non si trovano 108 mila euro l'anno per 300 bambini con problemi neuropsichiatrici di carattere soprattutto motorio? Sì, mi fa imbufalire sta cosa, perché ormai il programma ha preso una deriva populistica e demagogica, come scrivete. Prima di arrivare alla Libia, che è una lunga pagina, vorrei però dare una notizia positiva, perché in questi giorni, ragazzi, è veramente difficile. Per quello che riguarda la borsa italiana, fate notare che Gerusalmi non ha chiesto scusa. Sì, poteva dire che era dispiaciuto. Capiamo anche lui, capiamo tutti oggi, è sotto pressione, è successo di tutto questa mattina, la borsa è aperta alle 3:30 di pomeriggio, alcuni hanno pensato in maniera improvvida al complotto perché c'era la Libia che era in subbuglio. Ci ha spiegato che non è così, basta. Volevo dare una notizia positiva che riguarda Eutelsat, che è il principale operatore satellitare europeo che ha sede a Parigi. Perché? Perché ha avuto dei risultati finanziali più che buoni, ultimo semestre più 13% di ricavi a 570 milioni di euro, e anche molto buoni l'utile perché più 25% a 174 milioni, va bene quindi il business satellitare, non sente la concorrenza di internet, come ha spiegato il numero uno Michel De Rosen, amministratore delegato di Eutelsat, al nostro Enrico Pagliarini. We have the privilege of being in the center of what many people call the digital revolution. Abbiamo il privilegio di essere al centro di quella che molte persone chiamano la rivoluzione digitale, e questo ci coinvolge in due modi. Da un lato, la gente vuole sempre più immagini, vuole un numero maggiore di canali televisivi, più scelta. Ricordo che quando ero piccolo in Francia c'era un solo canale televisivo, oggi non si possono contare. Sui nostri satelliti oggi abbiamo circa 3.800 canali TV, e questo numero continuerà a crescere perché ogni nazione, ogni gruppo vuole la propria TV. I giocatori di golf, quelli di poker, i militari vogliono il proprio canale televisivo, e c'è anche un crescente numero di canali in alta definizione che hanno bisogno di maggiore capacità rispetto ai canali in definizione standard. Quindi uno dei trend è un numero crescente di canali che richiede maggiore capacità satellitare. There is a growing number of television channels that require a growing quantity of satellite capacity. Così il numero uno appunto di Eutelsat, e adesso la borsa, che vuol dire Libia, oggi quel poco di borsa che si è visto, e poi il fronte degli approvvigionamenti energetici. Sulla Libia vi stanno aggiornando i nostri GR, che Gheddafi ha detto che vuole morire come un martire, che è un beduino rivoluzionario, siamo d'accordo sia sulla prima che sulla seconda, e che resisterà fino alla libertà, vittoria per il popolo libico. Adesso delle cose anche più interessanti, perché sostiene che sono gli Stati Uniti e l'Italia ad avere distribuito ai ragazzi di Bengasi i razzi da usare contro la polizia. Anche l'Italia, ma noi eravamo amici, no? E poi l'Europa, che poco fa ha detto: attenzione, siamo solidali con il governo italiano, Siamo disponibili a fornire materiale umano e mezzi finanziari, ma non ci sarà alcuno smistamento degli eventuali profughi. Dopo che, lo ricordate, il ministro Bossi ha detto: beh, se arrivano li mandiamo in Germania. Questa è la risposta di Bruxelles, molto netta, molto tranchant, come direbbero da quelle parti. Andrea Fontana, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, visto che la borsa è stata aperta solo due ore, tu hai un quinto dello spazio di solito. Benissimo. Eccoci. In realtà oggi l'effetto libico non c'è stato, non come è temuto, perché i titoli più esposti, vabbè, Unicredito -1,80, Eni -0,80, Finmeccanica, mo la trovo, Ansaldo STS -2,44%, Finmeccanica con la qua -1,35%, insomma non c'è stato così l'attacco speculativo, anche perché il peggior titolo è Banco Popolare -2,60%, perché? Beh, perché è difficile, capirlo, insomma, anche perché per esempio Eni aveva fatto temere il peggio quando all'apertura di Wall Street le azioni ADR che sono trattate a Wall Street perdevano il 7%, in realtà Eni oggi ha molto limitato i danni perdendo lo 0,8% dopo peraltro aver comunicato la temporanea sospensione in via precauzionale di impianti appunto in Libia, pur precisando che gli impianti non hanno subito alcun danno. Diciamo che la bufera di ieri si è un po' placata, anche se certamente le banche milanesi, o meglio la banca milanese esposta sul fronte libico, cioè Unicredit, ha perso l'1,8%, quindi il doppio rispetto a quanto hanno perso i bancari in Europa, e ancora è andata male a Impregilo, che ha perso il 2%, ad Ansaldo e a Finmeccanica. Insomma, un po' di penalizzazione c'è stata. Certo, ieri si era esaurito il grosso della speculazione, il mercato un po' più attendista, forse diciamo con una battuta anche il blocco tecnico, lo stop della mattinata ha permesso un po' alla gente di ragionare. Ma ho appena finito di placare tutte la ridda di voci, di complotti, si è arrabbiato anche Raffaele Rosami, mi sono legato alla Borsa Italiana in diretta, quindi non dovremmo neanche commentare, dare queste notizie, e tu mi dici che forse ha fatto bene. Fontana, con chi stai? Allora, Crespi +32%, Meridiana +14%, Lidata +10%, Buongiorno Vitaminichi +5,3%, i migliori titoli, Zucchi -8%, Alberghi Italiani -8%, i peggiori titoli, tra chi è andato bene oggi, Diasorin +1,84%, Tenaris +1,20%, Lottomatica +0,40%. Andrea, grazie, ho rapportato il tuo tempo all'apertura di borsa, speriamo domani che sia più lungo il collegamento con Radio Cori. Il traffico. ليبيا ثورة كل الشعوب الأفريقية تعتبر ليبيا قبلتها وشعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا على بلدكم على طرابلس على سرت على بنغازي شوفوا صورتكم في الإذاعات العربية Non è cambiato il conduttore, non ancora, era il colonnello Gheddafi, che avete tutti abbiamo capito, no? Ha detto viva la Libia, viva l'Islam, non se ne vuole andare, va bene, ognuno faccia quello che vuole. Poi, per modo di dire, quello che sta capitando però è che, e vi do gli aggiornamenti sugli ultimi, aggiornamenti sui mercati, perché è di nuovo a record l'oro, quasi a record, scusate, $1,404, l'argento ai massimi da 30 anni, e poi il cacao, ma qui c'è un problema diverso sulla Costa d'Avorio. Il caffè arabico è salito ai massimi dal 97, a chi interessasse a $2,772 al libra, la qualità arabica. In realtà i timori ci sono sul petrolio, e lo ha chiarito molto bene oggi il numero uno di Alitalia, Rocco Sabelli, intervistato dal collega dell'agenzia di stampa Radio Cori sulle 24 ore, Andrea Salomone. Ha detto insomma attenzione, perché qui siamo molto preoccupati sulle tensioni sul petrolio. Ieri il petrolio è chiuso a $105 e quindi diciamo il problema c'è, naturalmente non c'è solo per l'Alitalia. Noi diciamo, almeno dalle nostre statistiche, abbiamo un livello di copertura anche superiore alla media, perché noi siamo coperti per poco meno della metà di tutti i consumi 2011. Siamo coperti a livelli interessanti, $84-85 a barile. Diciamo, gli analisti hanno questa visione di medio-lungo termine ribassista. È evidente che la crisi del Nord Africa di questi giorni non supporta questa visione. Noi auspichiamo, e non solo per il prezzo del petrolio, che questa possa essere una crisi gestibile dal punto di vista politico e che quindi possa rapidamente togliere argomenti alla speculazione. Noi consumiamo 800 milioni di euro di carburante all'anno, quindi diciamo, oscillazioni del 4, 5, 10% sono numeri importanti. ليبيا ثورة كل الشعوب الأفريقية تعتبر ليبيا قبلتها وشعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا على بلدكم على طرابلس على سرت على بنغازي شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف يخدمون الشيطان يريدوا إهانتكم نحن نريد نرد الآن بالفعل فوق الأرض في الميدان معمر القذافي ما عنده موقف حتى يزعل ويستقيل منه. Allora, il lunghissimo discorso interminabile di Gheddafi ha accusato anche l'Italia di aver fornito i razzi ai manifestanti. Ma staremo a vedere. Certo che la reazione libica, questo lo si può dire tranquillamente, non è stata come in Tunisia e in Egitto. Purtroppo sono oltre 1000 i morti stimati solo negli scontri di ieri, e sarà difficile fare un calcolo. Il problema in questo momento, non voglio sembrare cinico, ci mancherebbe, il vero problema è la tenuta sociale in Libia e anche, se possibile, l'arrivo a una transizione più pacifica possibile. Il problema però è in questo momento l'approvvigionamento delle nostre fonti energetiche, della nostra energia. L'ENI ha chiuso la fornitura di gas Green Stream che arriva dalla Libia. Per fortuna la Libia è il nostro quarto fornitore dopo l'Algeria, la Russia, l'Olanda, arriva al 12% di gas libico. Il petrolio, alcuni stabilimenti sono chiusi, non si capisce bene esattamente quelli sulla costa, stando agenzie libiche hanno smesso di produrre. L'ENI mantiene ancora un poco più di una trentina di dipendenti a Tripoli. Vorrei capire, riprendere quello che è stato il ragionamento ieri di Alessandro Praterotti, vice direttore del Sole 24 Ore. Non ci si può accorgere sempre troppo tardi che siamo male diversificati sull'approvvigionamento delle fonti energetiche. Il professor Carlo Scarpa, che insegna economia politica all'Università di Brescia, buonasera. Buonasera. Allora, la cosa insopportabile è fare quelli che ragionano col senno di poi. Gheddafi, obiettivamente, nessuno poteva immaginare, ma non solo Gheddafi, Ben Ali, Mubarak, che sarebbero così saltati da un giorno all'altro. Però il ragionamento fatto ieri da Praterotti a me piace. Cioè, dobbiamo anche stare attenti, perché tutta la nostra energia arriva da paesi instabili, anche Putin. E la Russia non è che sia un esempio di democrazia. Domanda: l'obiezione che viene fatta è, ma tanto il petrolio purtroppo si trova in paesi scarsamente democratici e molto instabili. Pensiamo a Venezuela, e vale anche per il gas, pensiamo al Nord Africa, pensiamo alla parte, diciamo, dell'Arabia Saudita e della penisola araba. Quindi non si può fare niente. Professore. In parte è vero, in parte no. In parte, vabbè, la parte vera è ovvia. Che cosa si potrebbe fare? Una prima cosa potrebbe essere sviluppare intanto gli impianti di rifornimento di gas liquido. Il gas liquido è molto più così acquistabile sul mercato aperto e quindi dipende molto meno da un singolo paese. Poi è chiaro che magari dipenderai un po' più dalla Nigeria piuttosto che dal Qatar, che non sono esattamente la Francia e la Germania, ovviamente, però tutto sommato quantomeno riesce a dipendere da tanti paesi allo stesso tempo e non da uno in particolare. Il secondo discorso poi eventualmente potrebbe essere, però questo chiaramente ci porta molto più nel lungo periodo, quello del nucleare, e lì, vabbè, diciamo, cioè, insomma, siamo in un'economia che senza avere idrocarburi dipende però tantissimo dagli idrocarburi. La metanizzazione, tutto quanto è stato fatto contando su delle importazioni che però chiaramente hanno componenti di rischio importante, però è evidente che questo non è il tipo di cosa che aggiusti nel giro di 6 mesi o neanche 5 anni. Senta, ma visto che il nucleare, per carità, è, e ne abbiamo parlato, ma è un progetto a 10 anni, lei trova veramente troppo poco diversificati i nostri approvvigionamenti energetici? Perché io potrei anche dire che, insomma, avere il gas da Algeria, Russia, Olanda e Libia in quest'ordine non è essere scarsamente diversificati. Ma, problema è capire quali sono le alternative. Diciamo che le alternative ce ne sono abbastanza pochine, voglio dire, un paese che ha molto gas e dal quale potremmo in realtà importarne tantissimo, un altro paese che si chiama Iran, ma non è che non mi sembra che cioè, politica, ecco. Dalla padella alla brace scarpa. Prego? Sì, dalla padella alla brace. Assolutamente. Una possibilità potrebbe essere, però anche questa richiede tempo e molta pazienza, costruire un ulteriore gasdotto a sud che passi attraverso la Turchia e ci dia accesso al gas. Senta, ma andare avanti con i rigassificatori, perché come lei ricordava, se poi il gas liquido arriva via nave, riesce anche a rifornirti in altri passaggi. Mi rendo conto che il gasdotto poi muove interessi economici ma anche politici, perché abbiamo visto da WikiLeaks, abbiamo appreso quanto gli stessi servizi segreti siano interessati a dove passa il gasdotto, i gasdotti, però per ora da quello che ricordo io c'è solo un rigassificatore, quello fatto da Edison a Porto Vesme, non vorrei dire una cavolata, vado a memoria in questo... poi c'è quello storico di Parigaglio, esatto, sì, però ancora non tantissima roba. Sicuramente se noi avessimo di più avremmo una possibilità di rifornirci molto di più sul mercato aperto. Attenzione però, perché comunque si tratta di investimenti costosi, senz'altro che però hanno un grosso vantaggio, cioè quello di non legarci a un paese, cioè il tubo non lo sposti, mentre un rigassificatore può ricevere le navi da una parte e dall'altra, quindi sei stato molto più flessibile sotto il profilo geopolitico. Sì, poi molti ci chiedono anche del piano energetico europeo, certo che servirebbe anche quello, ma mi sembra che l'Europa su questo sia in ritardo e sia in ritardo anche su altri elementi. In questo momento, Scarpa me lo conferma, ogni paese europeo fa come vuole, non esiste un piano energetico complessivo se non accordi tra singoli paesi. Grazie anche a Carlo Scarpa, che appunto insegna economia politica all'Università di Brescia. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, io vi lascio alla nostra programmazione. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.